30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento di 30 minuti in cronaca. Per 5 settimane abbiamo dedicato il nostro spazio al racconto della passione africana per il pallone, dalla Costa d'Avorio al Ghana, dalla Nigeria al Camerun, sulla via dei mondiali, per raccontare la complessità, le speranze e le ambizioni di questo continente dei giovani. Questa sera completiamo il percorso ripartendo da Johannesburg, la capitale economica del Sudafrica. Un mese intero con la testa nel pallone, un grande show da 6 miliardi di dollari, sono molti, qualcosa di mai visto nel continente africano. Il significato dell'Afromondiale non può essere sottovalutato per il Sudafrica, ovviamente, ma anche per il continente nel suo insieme. Chi lo ha definito un grande investimento sul futuro, chi invece uno spreco di forze in un paese con troppi poveri, dove per ogni nuovo stadio inaugurato restano al palo progetti sociali, infrastrutturali e sanitari urgenti. Di questo parliamo stasera con alcuni ospiti in studio. Questa sera con noi Massimo Di Nola. Buonasera Massimo e benvenuto. Buonasera a tutti. Massimo Di Nola è un giornalista, esperto d'Africa, appena scritto un libro, andiamo da lui tra pochissimo, ma intanto ci colleghiamo con Johannesburg, dove troviamo il nostro inviato Dario Ricci. Buonasera Dario. Buonasera Gigi, buonasera ai tuoi ospiti e agli amici in ascolto. Insomma, tu segui naturalmente il grande evento calcistico, le 32 nazionali che si sfilano per sfilare il successo appunto dell'edizione precedente dell'Italia, ma naturalmente guardi, e non da oggi, anche la società africana. Allora, la prima cosa che ti vorrei chiedere: i sudafricani che ne pensano? Insomma, la vedono come la grande chance per un cambiamento o piuttosto, come abbiamo detto, come uno spreco di denaro pubblico? Ma devo dire che l'opinione prevalente è sicuramente la prima, Gigi. L'entusiasmo della gente è tangibile, lo vedi anche nella grande collaborazione che hai nelle strade, tu turista straniero, tu visitatore straniero, nel muoversi nelle città, Johannesburg, Pretoria, Rustenburg, da parte delle persone. Sicuramente il mondiale è vissuto come una festa sudafricana, una festa africana, una festa dell'intero continente. E quindi, anche se non mancano poi le voci critiche rispetto ai temi che accennavi. Ecco, ma ci sono delle tracce visibili del mondiale, naturalmente a parte gli stadi, visto che la maggior parte di loro non c'erano. Oggi si è giocato a Ellis Park, forse uno dei pochi che c'era, di sicuro non quello dell'inaugurazione. Ma insomma, ci sono più treni, ci sono più strade, più case, più benessere? Ma in realtà, guarda, anche rispetto agli stadi l'operazione è stata fatta con una certa oculatezza, nel senso che gli stadi totalmente nuovi sono 4, anche il Soccer City Stadium, per quanto profondamente rinnovato, è stato fatto un po' sulle ceneri del First National Bank Stadium, e quindi in quella stessa area. I cantieri sono ben visibili ancora oggi per gli appuntamenti infrastrutturali che il Sudafrica non è riuscito in alcuni casi a mantenere, e poi c'è l'impatto psicologico, nel senso che è vero che molti dei posti di lavoro creati dal mondiale sono, diciamo, come dico, usando una terminologia italiana, a termine, ma è vero anche che spesso hanno offerto l'opportunità di un primo lavoro, di un primo inserimento nel mondo del lavoro per molte persone che prima a quel momento non avevano avuto un impiego, con tutte le conseguenze appunto anche psicologiche e sociali del caso. Insomma, questi grandi eventi di cui si discute molto, alcuni casi addirittura negli anni successivi, poi si parla dell'impatto anche disastroso, è chiaro che difficilmente determinano qualcosa di immediato e definitivo, ma sicuramente un elemento importante di questa storia, Dario, è quella del turismo. Tu l'hai appena accennato, il turismo è l'amplificatore internazionale di fatto di questa avventura, a patto che tutti fili liscio. Johannesburg in particolare è una metropoli in cui primo e terzo mondo si mischiano quotidianamente, creando una miscela con un potenziale infiammabile. Insomma, qual è l'aria che si respira in questi giorni, in quella che, lo ricordiamo, non è la capitale, ma è la grande metropoli del Sudafrica? Ma devo dire che il tema della sicurezza è il più dibattuto. Praticamente tutti i giorni se ne parla, fra giornalisti qui presenti, sia anche con chi in Sudafrica inizia a conoscerlo attraverso questi mondiali. Devo dire che è un tema molto enfatizzato dal punto di vista europeo, forse con degli eccessi che poi la realtà sul campo non conferma. È chiaro altrettanto che ci vogliono delle misure di buonsenso e di prudenza per evitare i rischi inutili, quindi Insomma, tu vai in giro. Io sì, anzi, devo dire, da alcuni italiani, italo-sudafricani che vivono qua da una trentina d'anni, ho ricevuto il complimento più bello finora, diciamo, di giornalista coraggioso, perché insomma mi muovo autonomamente con la mia macchina, ormai sono quasi fidanzato con la voce femminile del mio navigatore satellitare, però con serenità, ecco, approfittando anche della collaborazione della gente locale che ha capito che fa parte del mondiale, del grande evento, anche dimostrarsi ospitali per chi arriva a scoprire il paese. E sicuramente questa è una caratteristica, come dire, gli africani non hanno difficoltà a essere ospitali gentili, chiunque abbia avuto l'occasione di conoscere il continente lo sa, vero Dario? Eh sì, sicuramente sì, da questo punto di vista non mancano questi atti di grande disponibilità, e al tempo stesso però la prudenza ci vuole sempre grande attenzione negli spostamenti, evitare le zone che spesso anche gli stessi sudafricani certo, ti consigliano di evitare. Insomma, evitare i pericoli inutili. Esattamente, come mi ha detto il proprietario di un bed and breakfast di Cape Town qualche mese fa, è chiaro che se vai sul waterfront di Cape Town sventolando 500 euro, qualcosa di brutto potrebbe succedere. Grazie Dario, buon lavoro. Naturalmente lo sentirete, lo sentite tutte le mattine a partire dalle 6 con gli aggiornamenti sul Sudafrica. Insomma, da Johannesburg al Ghana sono milioni gli africani che hanno celebrato ballando, peraltro per le strade, il calcio d'inizio del mondiale, appunto targato Africa. Oggi il Sowetan, grande quotidiano di Soweto, ha raccontato in un articolo anche molto divertente di come tutto il continente si sia appassionato a questa vicenda. In Uganda, scriveva, sono apparsi maxi schermi nei villaggi anche più lontani, nel Botswana vicino si è ballato la Disky Dance, che è una danza legata al Sudafrica e al calcio, e hanno segnalato solamente in Somalia invece i militanti islamici hanno proibito la festa, sconsigliando di seguire quei pazzi che inseguono il pallone. Insomma, gli africani sono fieri che il Sudafrica sia stato capace di mettere il continente al centro dell'attenzione, e questo l'ha detto per esempio il ministro ghanese dell'informazione John Tia. Insomma, Massimo Di Nola, una prima battuta, poi sentiamo un'intervista. Per noi è quasi difficile capire l'entusiasmo africano per questo mondiale. Ma io credo che se noi guardiamo gli africani che ci circondano, le condizioni in cui vivono e la simpatia che riescono a erogare ugualmente, possiamo immaginarci quando sono a casa loro come che tipo di manifestazione di entusiasmo, di simpatia e di socialità possono produrre. Una grande avventura, una grande sfida, un rischio anche che solamente il Sudafrica poteva assumere. Non dimentichiamo, stiamo parlando della prima economia del continente, un paese veramente particolare. Lia Quartapelle, ricercatrice del progetto Africa dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale di Milano, ci aiuta a inquadrare il perché del ruolo del Sudafrica in questa sfida speciale. Prima di tutto, il Sudafrica non è un paese africano tout court, nel senso che è un paese di eccezionalità, dove primo mondo e terzo mondo si mescolano in maniera anche molto caratteristica e molto stridente in certi casi. Questa è la prima cosa. In realtà gli investimenti probabilmente saranno coperti dai ricavi dei mondiali. Più o meno il Sudafrica ha investito 4 miliardi di dollari per stadi e infrastrutture, da questo si escludono i costi per la sicurezza e una serie di altri costi che sono abbastanza ingenti e che non sono ancora in grado di essere stimati precisamente. Più o meno le entrate saranno più o meno le stesse, anche se la crisi sicuramente ha avuto degli effetti di diminuzione rispetto alle attese, ma la questione non è una questione di crescita economica, come ha detto anche l'amministratore delegato del comitato dell'organizzatore locale, ma è una questione di branding, cioè di lanciare il Sudafrica come una nazione tra le nazioni a tutto diritto. Insomma, è una questione di immagine? Sì, è sicuramente una questione di immagine. Insomma, il Sudafrica è sicuramente un paese, rispetto anche ai paesi non occidentali in cui è stato ospitato il campionato mondiale, che presenta problematiche maggiori, nel senso che una persona su 5 nel paese vive con meno di un dollaro al giorno ed è il paese dopo la Namibia col più alto tasso di disuguaglianza. Se pensiamo, c'è un tasso di disoccupazione tra il 23 e il 28%. Quindi stiamo parlando di una persona su 3, una persona su 4 senza lavoro. E quindi sicuramente il fatto di dire che i mondiali in Sudafrica sono probabilmente una spesa che un paese africano non può permettersi, ci sono delle giustificazioni nel dire questo. Al tempo stesso però non si può sempre pensare che siccome questi paesi sono poveri o hanno delle difficoltà non possono permettersi di aspirare a fare delle cose che i paesi più sviluppati fanno quotidianamente, cioè un po' anche l'idea che aveva Mandela, no? Di dire che in Sudafrica si può giocare a calcio nonostante la povertà, nonostante la disuguaglianza, nonostante delle evidenti tensioni sociali, è anche un messaggio molto forte, molto importante di dignità di un paese che è uscito insomma da una situazione sicuramente di guerra civile e da una situazione di tensione fortissima, se pensiamo agli anni 80 e ai primi anni 90, e ne è uscito a testa altissima. Oggi il Sudafrica è un paese del G20, l'unico paese africano del G20, è un paese con una crescita del 4-5% al di là di questi anni della crisi, quindi è un paese in netta ripresa, dove si tengono delle elezioni, dove c'è una democrazia molto partecipata e molto vibrante. 30 minuti in cronaca. Lo sport è politica, i giochi olimpici, i mondiali di calcio, per ciò che sono diventati, sono un concentrato di geopolitica e di messaggi di portata planetaria. Basta scorrere l'elenco dei paesi ospitanti dei giochi olimpici e dei mondiali per misurare ascesa e declino delle nazioni. Berlino 36, Tokyo 40, poi annullata, Corea 88, Barcellona 92, l'ascesa della Spagna. Poi che dire di Pechino 2008, di Brasile 2016, prima sudamericana in 120 anni di storia. Ma noi restiamo in Africa, anzi viaggiamo. Questo, per chi ama l'afrobeat lo avrà riconosciuto, è Alpha Blondy, star dell'afro reggae, appunto targato Abidjan, Costa d'Avorio. Canta in Djula, canta in francese, in inglese, a volte in Bolé, altra lingua ivoriana. Il tema principale della sua musica è quella della politica. È l'inventore, tra l'altro, del termine francese di démocrature, la democratura, quella combinazione tra democrazia e dittatura con cui definisce alcuni governi africani. Ecco, di questo elemento cominciamo allora a parlare con Massimo Di Nola, che vi ho presentato, lo ricordo, è un collega, un giornalista, appena pubblicato con Riccardo Barlam per il gruppo 24 ore un libro da un titolo promettente, Miracolo Africano, leader, sfide e ricchezze del nuovo continente emergente. Ecco, emergente per l'Africa, io oggi faccio un po' la parte, diciamo, del diavolo. Non è la prima volta che viene detto. Allora, perché oggi questo titolo, Miracolo Africano e un continente emergente? Ma Miracolo Africano perché indubbiamente, come ha detto anche la persona che ha appena parlato dell'ISPI, i mondiali di calcio riportano sulla ribalta internazionale un continente intero. Io aggiungerei una cosa, che l'aspetto interessante è che Sudafrica, quando lei diceva un'economia particolare, sì, ed era un'economia isolata dall'Africa, in qualche modo era un'economia molto più, cioè, autocentrata e semmai orientata verso l'Europa, gli certo, Stati Uniti. Più verso l'Australia e l'Inghilterra che non l'Africa stessa. Quindi miracolo africano è che per la prima volta il Sudafrica traina con sé tutta l'Africa a livello di immagine, ma la promessa è anche a livello economico. Ti faccio un esempio. Sudafrica è noto per avere ancora alcune tra le più grandi società minerarie del mondo, che hanno investito fino a qualche anno fa in Australia, in Asia, in America, pochissimo in Africa. Stanno completamente cambiando orientamento e stanno andando sull'Africa. Quindi sicuramente c'è questo elemento di unione di un continente e di creazione di un'immagine emergente. Emergente anche perché è vero che da tempo si è detto l'Africa è questo enorme potenziale di sviluppo dovuto alle sue materie prime, al suo potenziale agricolo, eccetera. Però è anche vero che ha avuto tanti anni di assestamento politico con guerre civili, eccetera, che l'hanno, come dire, bloccata. Quello che sta succedendo adesso, ed è l'altra parte del miracolo africano, che questi paesi piano piano meno stanno tirando fuori dei regimi, delle società che invece cominciano a orientarsi verso lo sviluppo fortemente. Ecco, l'Africa tra democrazia e dittatura che abbiamo sentito è anche in cerca di grandi leader che possano colmare anche il vuoto generazionale. Insomma, l'abbiamo detto molte volte, questo è il mondiale di Nelson Mandela. Mandela ha in qualche modo preteso, grazie alla sua forza morale, al suo carisma internazionale, questi campionati mondiali. Ma all'orizzonte cosa c'è? Non tanto in Sudafrica, ma nel continente. Ma direi che all'orizzonte c'è... ci sono varie generazioni di leader africani, ci sono i padri storici tipo Nkrumah che tu citavi prima, c'è stata adesso una generazione di leader che non va sottovalutata. Nel libro per esempio parliamo abbastanza dei leader della regione delle grandi ave, dei grandi laghi, come Museveni, come Kagame in Ruanda, che sono delle persone che hanno preso in mano dei paesi assolutamente stesi a terra dalle guerre civili e hanno cominciato a farli diventare dei paesi con infrastrutture, strade, reti di acqua che arrivano nelle case delle persone, reti elettriche, eccetera. Quindi voglio dire, sono dei paesi in cui lì ci sono questi leader che giustamente sono visti, giusto il termine che citavi prima, della sono democratura, sicuramente sì, alquanto autoritari, sì. Anche se molti di questi restano formalmente democrazie, che però hanno dato dei risultati. Il futuro da che cosa è fatto? Dai sistemi dove si spera che questa forte centratura sui leader singoli possa essere anche allargata a delle classi dirigenti complessivamente capaci di agire come gruppi e di essere e quindi di poter intervenire anche più in dettaglio nelle cose del potere. Perché cosa succede adesso in Africa? Esiste una struttura di potere tradizionale con il leader che è un po' il grande padre che fa da arbitro. Insomma, la creazione anche di quella middle class di cui tanti anni fa già si parlava per il continente. Parliamo di ricchezze, risorse. Mi piace sempre ricordarlo, il primo viaggio del 2010 del ministro degli esteri cinese Yang Jiechi è stato un tour africano in 5 tappe. Il 2 gennaio era già lì, a tempo di festeggiare a Pechino. In quel caso ha visitato Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Algeria e Marocco. Ma ancora più importante, ritengo, era il terzo viaggio in Africa per lui nei 12 mesi precedenti. E insomma, un lato in questa storiella ci sono due elementi, le risorse africane e la Cina che mischia tutte le carte. Sì, la cosa si spiega molto facilmente. La Cina è la fabbrica del mondo, ormai ce l'hanno detto tutti quanti. La fabbrica del mondo ha bisogno di materie prime. Le materie prime del mondo sono generalmente monopolizzate da grandi multinazionali nel settore minerario, nel settore petrolifero. I cinesi devono cercare le risorse laddove non sono ancora state del tutto sfruttate. L'Africa, fra i grandi continenti, indubbiamente, in parte anche il Sud America, è uno di quelli dove ancora si può trovare del nuovo petrolio, si possono rimettere in operazione delle vecchie miniere di rame come è successo in Uganda, che gli occidentali avevano abbandonato perché non erano abbastanza ricche, si possono cercare nuove risorse, si possono costruire strade e porti per portare queste risorse dalle regioni interne al mare, cosa che gli occidentali non hanno mai fatto e che i cinesi da 5-6 anni stanno facendo. Di qui questa loro continua attenzione all'Africa e appunto il viaggio di cui tu parli è una delle tante manifestazioni di questo interesse. Ecco, vi faccio sentire un piccolo brano storico che è in arrivo dalla regia. Abbiamo un Kwame Nkrumah. This mid-20th century is Africa's. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Ecco, era il 1957, Kwame Nkrumah, presidente del Ghana, che lui stesso aveva inventato cancellando il vecchio nome coloniale di Costa d'Oro, dichiara in quello che definisce il decennio dell'Africa che il passo successivo è quello degli United States of Africa. Insomma, il sogno panafricano è sogno che aspetta ancora e forse è uno dei grandi incompiuti del continente, un paese che in realtà rimane molto diviso al suo interno. Allora Massimo, ci sono segnali anche su questo fronte? O sono, come dire, in questo elementi negativi? Sicuramente sì. Allora, voglio dire, chiaro che l'Africa unita, come non so, i paesi arabi uniti, eccetera, sono dei sogni. Sono importanti perché però sono uno stimolo i sogni. La cosa che sta succedendo è che, per esempio, i nostri giornali, la nostra stampa non ne parla poco, è che molti paesi africani hanno dei problemi, dittatori che improvvisamente scatenano delle guerre interne, problemi di confine tra paesi, eccetera, ma hanno messo in piedi delle organizzazioni, l'Unione Africana, l'Unione dell'Africa Occidentale, ci sono anche... cioè l'unione dei paesi, adesso non ho in mente la sigla esatta, dell'Africa Australe, dove c'è dentro Sudafrica eccetera, in cui i leader si incontrano e cominciano a discutere di cose molto concrete. Se noi abbiamo in Etiopia delle grandi risorse idroelettriche, però i consumi idroelettrici sono in un altro paese, come facciamo? Mettiamoci d'accordo per fare le linee elettriche, distribuirci gli oneri e gli utili, facciamo i gasdotti, quindi c'è un problema di integrazione economica che stanno risolvendo, ma direi molto di più, c'è un problema di pace politica, cioè gli africani hanno capito che quando in un paese si scatenano le tensioni e i famosi dittatori della vecchia generazione ne hanno scatenate tante, che cosa succede? Ci sono degli esodi spaventosi. Sudafrica è uno dei paesi che ha vissuto la conseguenza della dittatura dello Zimbabwe, quindi ci sono state milioni di migranti. Allora c'è un forte impatto e direi una forte efficacia di queste organizzazioni regionali per cercare di trovare dei sistemi di governance, questo orribile termine che oggi va di moda, e di mediazione che risolve molti conflitti. Allora, e che sostengono anche la stabilità delle regioni. Esatto. Allora, Massimo, vorrei, il tempo corre, abbiamo ancora poco più di un minuto, vorrei chiederti, all'interno di Miracolo Africano, quindi il libro che hai scritto con Riccardo Ballam, ci sono una serie di esempi che in fondo sono rappresentativi anche delle speranze, quello delle trasformazioni, cioè non speranze generiche, trasformazioni energetiche, ma anche la trasformazione grande del mondo delle telecomunicazioni. Sì, guarda, l'Africa è il miracolo dei telefoni. Quei telefonini africani fanno 20.000 cose più di quelle che facciamo noi, chiamano i medici, fanno delle transazioni commerciali, quindi stanno inventando alla misura di una società povera che manca di infrastrutture, quindi non hanno le linee telefoniche, riescono lo stesso a impossessarsi degli strumenti che la tecnologia gli dà. L'altra cosa che tu citavi, io poi adesso qui chiuderei, ma secondo me è molto importante, che l'Africa di fatto sta diventando una componente importante di un nuovo modello energetico che ha come base quella cosa che si chiamano biocarburanti, che contrariamente a quello si crede non è prendere il grano che serve per mangiare e trasformarlo in benzina, ma mettere a frutto una serie di coltivazioni eccetera che non sono commestibili e rendere questi paesi indipendenti dal punto di vista energetico, evitando loro queste massicce importazioni di petrolio che sono il problema stabile di, come dire, che blocca i conti di quasi tutti i paesi emergenti, perché quando tu cominci a importare benzina e petrolio non hai più soldi per fare null'altro. Grazie a Massimo Di Nola per essere stato con noi stasera, Valeria Bernardi in regia. È tempo di sentire gli aggiornamenti di GR24.